Fai che grondino sorrisi, era un uomo colto, l'altra faccia della luna ha un brutto volto. Tu che parli con le mani senza mai aprire bocca e con gli occhi inchiodi il sole, tracci la rotta. Dammi l'ombra per colorare il tuo mondo, la tua voce, dammi l'aria da respirare affinché ti possa salvare. Fai che grondino sorrisi, era un uomo colto, l'altra faccia della luna ha un brutto volto. Dammi l'ombra per colorare il tuo mondo, la tua voce, dammi l'aria da respirare affinché ti possa salvare. T'amo, t'amo, t'amo come a maggio, quando i campi sono in fiore, il cielo un raggio. Tu sei il mio castello, il mio terreno. T'amo come il cielo ama il sereno. Così la coccolava, così lui gli parlava, per lei apriva porte, per lei leggeva carte. Ma un giorno oltre ogni oltre successe l'improbabile, fu licenziato come un cane anche esodato. Quando piovono disgrazie siamo tutti senza tracce, paga sempre il poveraccio, paga il conto e stai zitto. T'amo, t'amo, t'amo come a maggio, quando i campi sono in fiore, il cielo un raggio. Tu sei il mio castello, il mio terreno. T'amo come il cielo ama il sereno. Così la coccolava, così lui gli parlava, per lei apriva porte, per lei leggeva carte. Ma un giorno oltre ogni oltre successe l'improbabile, fu licenziato come un cane anche esodato. Come può nascere il sole in piena notte? Come puoi scaldare casa se le finestre sono rotte? Neanche agli animali è dato questo destino, trattato come un pacco, buttato sotto a un treno. Per lui niente di niente, per lui niente domande. Una lettera stampata con la sua vita, con il suo sangue. Quando piovono disgrazie, siamo tutti senza tracce, paga sempre il poveraccio, paga il conto e stai zitto. T'amo, t'amo, t'amo come a maggio, quando i campi sono in fiore, il cielo un raggio. Tu sei il mio castello, il mio terreno. T'amo come il cielo ama il sereno. Così la coccolava, così lui gli parlava, per lei apriva porte, per lei leggeva carte. Ma un giorno oltre ogni oltre successe l'improbabile, fu licenziato come un cane anche sodato. T'amo, t'amo, t'amo come a maggio, quando i campi sono in fiore, il cielo un raggio. Tu sei il mio castello, il mio terreno. T'amo come il cielo ama il sereno. Così la coccolava, così lui gli parlava, per lei apriva porte,